si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua a 7:33 minuti, ben ritrovati in diretta su Radio 24 con Si può fare. Buongiorno da Alessio Maurizi, staremo insieme fino alle 10, un'occhiata alle prime pagine dei giornali tra l'attesa per il Quirinale, l'attesa per Tsipras in Grecia e i botti delle bottiglie di spumante stappate per il quantitative easing approvato da Draghi, almeno bottiglie stappate da questa parte dell'Europa, perché dall'altra parte in Germania c'è qualche dubbio, qualche critica, forse anche e alcune perplessità. Parleremo più avanti di uno dei passi in avanti, di una delle riforme più importanti, quella dell'abolizione delle province. Non dimentichiamocelo, entro marzo gli esuberi dei dipendenti delle province, circa 20.000 persone, dovranno essere piazzate da qualche parte. Una delle strade che si fa a largo è quella di piazzarli nei tribunali, dove c'è mancanza di personale, tribunali che sono sotto organico. Tra l'altro oggi si inaugura anche l'anno giudiziario, quindi siamo in tema. Questo argomento lo affronteremo più avanti dopo il GR delle 8, ma da subito vi chiediamo: secondo voi funzionerà questo trasferimento del personale, dei dipendenti pubblici dalle province ai tribunali? Cominciate subito a rispondere a questo nostro sondaggio di questa mattina. Se volete i nostri contatti, ve li dico subito, per interagire con noi in tempo reale: la pagina Facebook di si può fare trattino Radio 24, l'account di Twitter è chiocciola si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Adesso andiamo sui giornali di oggi. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché ha notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, vediamo, dicevamo l'attesa per le elezioni in Grecia, che tengono con il fiato sospeso, tema che si intreccia con le recenti decisioni del governatore della Banca Centrale, presidente della BCE Draghi, il quantitative easing. Si comincia a vedere le reazioni, critica per esempio quella della Bundesbank sull'effetto che questa cosa potrebbe avere in termini di slacciare le cinture di sicurezza, no? Allentare i vincoli del rigore in Europa, e poi tutto il dibattito interno ai partiti in vista delle elezioni per il Quirinale che cominceranno la settimana prossima. Cominciamo dal Corriere della Sera. Il titolo principale è la sfida di Tsipras all'Europa, il leader greco via i vecchi patti. E sulla BCE, diciamo, scontro visco Bundesbank. Riassume così tutto il Corriere: e non rispetteremo accordi firmati dal governo precedente, l'annuncio del leader della sinistra Tsipras, probabile vincitore, arriva a due giorni dalle elezioni in Grecia. Così si escludono dagli aiuti, avverte però Berlino. La Merkel intanto a Firenze elogia l'Italia e il Jobs Act, e Renzi promette di mettere il turbo alle riforme. Ma, dicevamo, è scontro tra i banchieri centrali d'Italia e Germania sui rischi delle mosse della BCE. L'argomento Quirinale con il titolo e il commento di Verderami: l'ipotesi Amato, aspettando le scelte di Renzi. Nella lista di Berlusconi c'è anche il nome di Amato, nella lista di Alfano, che è la stessa di Berlusconi, c'è anche il nome di Amato, nella lista di Bersani c'è anche il nome di Amato. Napolitano spinge per Amato, D'Alema dice Amato, ma Amato sta nella lista di Renzi? È questo il punto, perché in passato, con un candidato così sponsorizzato, la corsa al colle sarebbe finita al primo giro. E questo è, diciamo, l'inizio del commento di Verderami, che punta l'attenzione sul tema di Amato, se rientri o no nei piani in realtà di Renzi. Sempre sul Corriere, l'altra sponda che si è mossa ieri è quella che si è autodefinita del non nazareno. Candidiamo un NN, un non nazareno. Vendola e Civati chiamano i 5 Stelle. Sul nome però del candidato ideale NN, ovviamente nessuno degli interessati intende bruciare un'altra volta il nome e la statura di Romano Prodi, ma è chiaro che è quello l'altissimo profilo a cui tutti pensano. Il copyright NN, scrive ancora il Corriere, è di Pippo Civati. Tutti coloro che stanno dicendo peste e corna del patto del Nazareno e della sua estensione addirittura addirittura alla creazione di un nuovo soggetto politico, dovrebbero fare una proposta sull'elezione del Presidente della Repubblica, perché non sia espressione del Nazareno. Fino alla rottura delle sulle riforme tutti negavano che nella trattativa privata del patto ci fosse anche il Quirinale, ma ora tutti ammettono che non era vero. Sono poi giorni che circola tra i deputati del PD il primo test per il candidato non nazareno alla presidenza della Repubblica. Eccolo: firmerebbe il candidato NN un decreto per cancellare la sanzione penale a chi si macchia del reato di frode fiscale? Seppure sotto un tetto percentuale stabilito dal suo reddito complessivo, la famosa norma del 3%, la famosa manina di Renzi, la gelida manina che poi si è scoperto per sua stessa ammissione essere il Presidente del Consiglio. Ecco, questo è il primo test. La durezza sulla lotta all'evasione fiscale. Firmerebbe il Presidente della Repubblica questa norma? E questo è un punto dirimente, secondo insomma l'asse che si è creato, Vendola, Civati. Prima di andare sugli altri giornali per proseguire, sempre dal Corriere, in prima pagina la fotonotizia che riguarda la successione in Arabia Saudita. Morto Abdullah, come sapete, al suo posto il fratello Salman. L'ambigua eredità di un re. L'Arabia Saudita ha un nuovo re, il principe Salman, 79 anni, eredita infatti il trono dal fratello 90enne Abdullah, morto nella notte tra giovedì e venerdì, un sovrano capace di offrire a Israele la pace del mondo arabo e di aprire il voto alle donne, sì, però solo a livello municipale. Dicevamo la corsa al colle per Repubblica è questo il tema della giornata. Il PD ora cerca l'accordo sul colle, saremo uniti. Da dove deriva questa, diciamo, ricerca di unità all'interno del Partito Democratico? Dalle parole del vice segretario Guerrini. Scrive Repubblica: nella corsa al colle il PD resterà unito, lavoriamo per una proposta condivisa. Così il vice segretario democratico Lorenzo Guerrini ha risposto all'ipotesi di un fronte anti-Nazareno per il Quirinale lanciato dal dissidente Pippo Civati e da Nichi Vendola di SEL, aperto anche al Movimento 5 Stelle. I grillini però nicchiano su tutta la linea, sia sulla proposta Civati-Vendola, sia sulle parole di chi governa nel PD, cioè Guerini-Renzi. Prima vogliamo la rosa di nomi di Renzi, e questo è il metodo scelto dai grillini anche per evitare di bruciare i loro nomi e di fare la fine dell'altra volta. Nessuna quirinaria sul sito, sul blog di Beppe Grillo. Ci sarà, diciamo, di spontanea iniziativa da parte del Movimento 5 Stelle, se non per esprimersi su una rosa di nomi fatti da Renzi, che però non ha alcuna intenzione di fare questa rosa di nomi. Quindi capite che, come sempre, tra PD e Movimento 5 Stelle si discute, ma non si arriva mai a nessun punto. Allora, invece, per quanto riguarda l'altro tema importante, che è il quantitative easing e tutte le conseguenze di questa decisione, all'interno di Repubblica dicevamo dello scontro tra la Bundesbank e la Banca d'Italia, l'impiccio tra tutte queste banche centrali. Allora, Weidmann attacca il piano BCE, addio riforme a Roma e a Parigi, Visco non è così, l'impegno resta. Succede che il presidente della Bundesbank dica: con le operazioni sui titoli le politiche di consolidamento dei paesi verranno messe da parte. Leggiamo le parole esatte usate dal James Weidmann, definito giovane e autorevole presidente della Deutsche Bundesbank, nell'intervista che tra l'altro esce stamani su Bild. È chiaro che l'acquisto di titoli, deciso dalla BCE, secondo la linea del suo presidente Draghi, riduce le pressioni su Italia e Francia perché realizzino le riforme, e sarebbe pericoloso non proseguire sulla strada delle riforme che è già stata intrapresa. La risposta del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco non si fa attendere: non penso affatto che il quantitative easing riduca l'impegno alle riforme di Italia e Francia, non penso che sia così. Altrove sulla stampa, lo leggeremo tra poco, c'è anche un'intervista a Visco che argomenta perché secondo lui questa decisione di Draghi invece può dare anche maggior, come dire, fiato alle riforme in corso, soprattutto in Italia, ma anche in Francia, perché ci sarebbero sostanzialmente più risorse economiche a disposizione. Questo lo vedremo tra un attimo. Chiudiamo su Repubblica il commento alla chiosa a questo botta e risposta tra Germania e Italia. La vittoria ai punti di Draghi dunque non conclude affatto il braccio di ferro, anzi preannuncia nuovi duri confronti tra le due linee dentro la BCE e in Europa, naturalmente. Il rigorismo tedesco per il consolidamento dei bilanci pubblici contro l'interventismo alla Draghi per evitare la deflazione. È interessante però capire anche quali sono le ricadute concrete di questa mossa della BCE, di questi acquisti di titoli di Stato, con i rischi tra l'altro ripartiti anche sulle banche nazionali. Repubblica calcola questo: effetto BCE sul tesoro in due anni 20 miliardi di risparmio sul debito per noi. Sono buone notizie, questo scrive Repubblica. La mossa di Mario Draghi aiuta i conti pubblici dell'Italia e rilancia il PIL. Secondo i primi calcoli, il quantitative easing taglierà la spesa per interessi sul nostro debito pubblico per 6,3 miliardi quest'anno e addirittura per 13,4 miliardi nel 2016. E questo è il principale effetto dello spread, che ormai guarda quota 100. Sono stime fatte da alcuni analisti e parlano appunto di 20 miliardi di euro di risparmi in due anni, l'equivalente di una finanziaria di quelle pesantissime, e quindi capite bene quanto importante potrebbe essere e sarà per i conti pubblici italiani, per l'Italia, questa manovra. A questo si aggiunga, ed è il commento che fanno un po' tutti in queste ore, che ci sono una serie di altri fattori positivi che fanno sperare bene per la ripresa economica. Sempre Tarquini su Repubblica conclude dicendo: il quantitative easing, la svalutazione dell'euro, ecco l'altro fattore, la nuova flessibilità di Bruxelles e la riduzione del prezzo del petrolio stanno cambiando il quadro. Sono in molti a valutare che la crescita del PIL potrebbe tornare ai livelli intorno allo 0,7-0,8% molto presto, e naturalmente ce l'auguriamo. Ci fermiamo per una pausa per il traffico, torniamo tra un attimo. Non si può fare. E allora torniamo sui giornali di oggi con la rassegna stampa e insomma sul tema delle conseguenze della mossa di Draghi. C'è anche il Sole 24 Ore, naturalmente, che scrive: Draghi convince i mercati, tassi ai minimi, euro a 1,12. Due commenti messi in prima pagina Sole 24 Ore, che sono quello di Guido Gentili: le riforme in Italia, lo scudo della BCE non è un liberi tutti, l'Italia per rendere un buon servizio alla nuova politica monetaria della BCE firmata da Draghi e insieme per cogliere tutte le occasioni che questa può prospettare in termini di crescita, deve innanzitutto evitare un rischio, quello di sentirsi ormai al riparo da ogni guaio e comunque protetta da un formidabile scudo garantito dalla BCE e dalle singole banche centrali. L'altro commento è: le riforme in Europa, il bazooka può creare l'embrione degli eurobond. Il commento affidato a Alberto Quadrio Curzio: le misure di quantitative easing europeo della BCE segnano sotto vari profili una svolta storica dell'eurozona, la cui banca centrale assume un potere e una responsabilità crescenti. Dunque si sottolinea questo carattere anche di svolta proprio storica all'interno dell'Europa, secondo Quadrio Curzio, che aggiunge: ciò dimostra purtroppo però nel contempo che le altre istituzioni europee, dove anche gli stati membri sono presenti, non hanno saputo svolgere il loro ruolo per portare l'Europa unita verso un assetto che sia quantomeno confederale. E insomma sui ritardi della politica europea non c'è bisogno di aggiungere altro. Però dal Sole 24 Ore intanto le stime su quanto la mossa della BCE possa giovare insieme agli altri fattori sul PIL italiano. Moria Longo scrive: tassi euro petrolio per l'Italia tra lo 0,8 e l'1% di PIL in più, quindi stime ancora più positive per quanto riguarda l'effetto di una ripresa dell'economia italiana che derivi dal ribasso del prezzo del petrolio, il calo dell'euro sul dollaro e sulle altre monete, e insomma il quantitative easing, cioè anche l'abbassamento dello spread e tutte le altre conseguenze. Poi c'è un'altra notizia importante sul Sole, che è questa: ieri Consiglio dei Ministri straordinario, IMU agricola, ecco i nuovi criteri, l'esenzione in 3.500 comuni a 3 giorni dalla scadenza dell'IMU sui terreni agricoli. Un Consiglio dei Ministri straordinario ha varato ieri un decreto legge che rivede i contestati criteri altimetrici per il pagamento, esenzione per tutti i comuni montani, che sono circa 3.500, altri 652 comuni sono parzialmente esenti. Per chi dovrà comunque pagare l'IMU agricola, il termine è stato posticipato al 10 febbraio. Scusate, ma era doveroso soffiarsi il naso a questo punto. Lasciamo il Sole 24 Ore e torniamo sulla Stampa, che intervista il governatore della Banca d'Italia Visco sulla scontro anche con i colleghi tedeschi. Leggiamo solo questo passaggio perché poi il resto lo trovate sulla Stampa. È vero che il quantitative easing rischia di frenare le riforme, come sostiene Angela Merkel? Al contrario, dice Visco, la minore incertezza che deriverà da questo, dal quantitative easing, porrà le basi per rendere meno costosa la realizzazione delle riforme attualmente frenate dalle condizioni cicliche avverse. Cioè, dice Visco, visto che Italia e Francia, ma anche altri stati, risparmieranno con questa esposizione della Banca Centrale Europea, che acquisterà titoli di Stato, risparmieranno sui loro conti diversi miliardi di euro di interessi sul debito, ecco che ci sarà lo spazio non per fare le cicale ma per continuare a fare le formiche, cioè altre riforme strutturali che possano, diciamo, far ripartire le economie sempre nel rispetto del rigore che vuole la Germania. Ancora, ma come giudica le reazioni tedesche? Qualcuno sostiene che Draghi stia distruggendo addirittura la credibilità della BCE. Non voglio commentare, dice Visco, ma sono sicuro che i leader politici tedeschi spiegheranno ai cittadini il senso della decisione prese. La caduta dei prezzi è un fenomeno dell'area euro. I membri del Consiglio direttivo non rappresentano i singoli paesi, ma agiscono nell'interesse dell'intera area. Vabbè, lasciamo stare Visco, ci sono altri aspetti sulle banche popolari, ma ci porterebbero lontano. Nei minuti che restano, invece, un'altra intervista sempre della Stampa a chi? Al compagno di Marine Le Pen, che è Louis Alliot, 45enne, che secondo molti è la mente del Front National francese. Attenzione, il Front National non ha paura di dire stiamo con Syriza, cioè la sinistra radicale greca. La destra estrema francese sta con la sinistra estrema in Grecia. Perché? Sentite, è vero che appoggiate Syriza? Certo, dice Alliot, ripeto, compagno di Marine Le Pen, sappiamo benissimo chi sono, ma quando criticano il sistema economico europeo, questo ultraliberismo sotto gli occhi di tutti, la pensiamo allo stesso modo. Anche quando attaccano la politica di austerità per lo stesso motivo, apprezzo pure gli indignati spagnoli, sono le uniche cose che abbiamo con loro, ma in comune con loro, ma io non sono come quelli di sinistra. Cosa vuol dire? Noi non cadiamo nel settarismo della sinistra tradizionale, che non riconosce gli elementi positivi nei discorsi dei loro avversari. Quindi vedete la destra post ideologica di Marine Le Pen in Francia. Ma perché in Grecia non appoggiate Alba Dorada, l'estrema destra? Non abbiamo niente a che fare con quella gente là, commenta Alliot, compagno di Marine Le Pen. Poi ancora, su Twitter è stato fatto girare un video di un vostro eurodeputato dove pronuncia affermazioni fortemente anti-islamiche. Marine Le Pen lo ha esautorato da tutte le funzioni all'interno del Front National e ha fatto benissimo, anche se, aggiunge, io personalmente sono d'accordo con il 90% di quel video. Dunque anche però mi viene da dire l'ambiguità del Front National, che si espelle il leader che ha fatto frasi islamofobe, però dice di condividerle queste frasi. Va bene, adesso siamo in chiusura della rassegna stampa, in attesa dopo il giornale radio di risentirci e di cominciare con il programma. Vi voglio lasciare con una buona notizia, ce l'abbiamo, vai. And now the good news. E allora, la buona notizia è questa qua. Abbiamo sentito che ci sono previsioni di ripresa dell'economia italiana grazie a vari fattori concomitanti, però ci sono anche segnali già positivi per quanto riguarda il 2014. Piccoli segnali, però dobbiamo prenderli per quello che sono, altrimenti ci diciamo soltanto quando ci sono le indicazioni negative sull'economia. Eccolo qua, INPS, cassa integrazione in calo del 6% nel 2014. E quindi, insomma, il ricorso alla cassa integrazione, quindi le crisi aziendali l'anno scorso sono state meno gravi dell'anno precedente. E insomma, questa è una piccola buona notizia. Vai, ci sentiamo dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. And no, I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Bass, bass, bass, bass. Hey. Buongiorno di nuovo, buongiorno cari ascoltatori da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti, buon sabato. Oggi sarà una giornata infernale, raffreddore, tosse, non so, sono allergia. Qua, sono qua come un avvoltoio che attende il cadavere, direi. Sono qui che aspetto di andare in onda da solo. Oh, buongiorno Gabardini. Buongiorno anche a te Alessio. 00240024, cari ascoltatori, vi aspettiamo come sempre in diretta. Abbiamo già aperto il numero verde, al centralino vi aspettano. Chiamate. Sì, chiamate anche per sostituire Alessio. Comunque stavo scherzando, sì. Adesso mi sento in colpa per quello che ho detto. In effetti è mattina presto, così augurare delle cose brutte al proprio capo è una cosa che non va fatta. Chiedo scusa. Qualcuno invoca già Taddia, evoca già Taddia. Allora, qualcosa da dichiarare? Se ho qualcosa da dichiarare, mi spiace leggermente per il tema, perché volevo parlare d'altro, avevo delle cose molto belle da dire, però purtroppo mi è capitata sott'occhio una notizia che mi ha fatto troppo ridere, diciamo, anche nella sua tragicità, se devo essere onesto. Ed è questa notizia qui di un ragazzo a cui hanno Danilo Giuffrida, a cui hanno rifiutato la patente perché è gay. E questa cosa qua anni fa, però anni fa, sì. La anni notizia fa. Adesso la storia è di in realtà 15 anni fa. Lui fa ricorso, ovviamente il TAR gli dà ragione, gli dà e gli danno anche 20.000 euro di risarcimento. La notizia di oggi è che la Cassazione è intervenuta e ha invece detto che la gravità dell'offesa è così ingente che bisogna rifare il processo e probabilmente dare più soldi di risarcimento. Sì. Quindi il processo si sposta da Palermo a Catania. Questa è, scusatemi, da Catania a Palermo. Questa è la notizia. Sì. La cosa che è interessante è andare a vedere questa storia. E dico che è interessante anche perché forse non si può fare. Perché paradossalmente, anche se erano solo 15 anni fa e non il Medioevo, direi che delle cose sono cambiate. Perché mi sembra più difficile che in questo momento avvengano cose così, quindi perlomeno diciamoci le cose cambiano, alcune sono già cambiate grazie forse anche a associazioni che si sono molto occupate della questione. Questo mette per dire molto brevemente, mi fa ripeto, la dico con sorriso sulle labbra e spero che Danilo Giuffrida non me ne abbia a male, anzi mi sembra di capire che lui stesso è sufficientemente ironico per parlare della propria battaglia. Comunque lui 15 anni fa va a fare la visita per il militare, così ci ricordiamo anche altre cose che sono cambiate in questo paese, tipo la visita di leva che noi abbiamo fatto e che invece i giovani d'oggi non devono fare. Va al militare e dice la verità, dice io sono omosessuale. Dall'altra parte i medici gli dicono e noi come facciamo a crederci? E lui gli dice vabbè, se ve lo dico io più di questo no, guardi, lei deve iscriversi all'Arcigay. Lui fa come, scusi, in che senso? All'Arcigay, così attesta la sua omosessualità. A me già questa cosa qua fa ridere, perché è che se io mi iscrivo a un corso di tango sono un tanghero, non so se per il ministero è così, che nel momento che io ho una tessera dell'Arcigay. Ma forse perché dichiarare di essere gay equivaleva alla possibilità di farti esonerare al militare, quindi loro volevano una prova. Sì, ma che prova è? Chiedo scusa. No, vabbè, ridico. Se così tutto fosse, molto ridicolo. Se no? così fosse, basterebbe. Cioè, l'ACE, a parte che avrebbe un sacco di iscritti, molti di più, sì. Semplicemente per saltare militare. Ma la cosa divertente, ecco, sì. È che a questo punto, divertente, anzi, forse questo è veramente il pezzo tragico, è che due mesi dopo gli arriva a casa una lettera dalla motorizzazione che gli dice: lei non può avere la patente perché non ha le capacità psicofisiche per poter guidare. A questo punto lui dice: ma come? Com'è possibile? Prende, si fa accompagnare la sua mamma, ha 19 anni a questo punto, va alla motorizzazione, anzi va in una sorta di centro di igiene mentale a fare questa visita medica e si ritrova in mezzo a persone che, diciamo, uno non ha un occhio, uno non ha un braccio, che giustamente hanno delle difficoltà, diciamo, motorie o di altro tipo per guidare. Gli fanno una visita medica alla motorizzazione perché si scopre che la motorizzazione è stata informata dalla sì. Marina militare, non so come, tipo: oh ragazzi, occhio, sta per arrivare un omosessuale proprio lì, pensate, vuole addirittura guidare, come si fa? E quindi gli tolgono la patente e gli dicono: ogni anno lei deve venire a rifare questa visita. Non so, come a dire, vediamo se peggiora, come sta andando la sua gaitudine. Te pensa che su questa notizia noi in redazione abbiamo avuto una discussione, perché ho chiesto a un collega: scrivi una notizia su questa cosa qua, ma non riuscivo a capire la notizia. Ho detto: la riscrivila, perché non si capisce, cioè era complessa, dai. La notizia in realtà, la notizia è lo spostamento assurda, del processo, era talmente, diciamo, assurda che non si capiva. Va bene. Aggiungo solo una cosa brevissima, che il ragazzo stesso dice: io ho alle spalle una famiglia di un certo tipo che mi hanno accompagnato in tutto questo percorso che è durato 15 anni, mi spiace perché ci sono altri ragazzi che invece, magari non avendo una famiglia così lungimirante, sarebbe stata una cosa più tragica. 800 24 00 24, cari ascoltatori, tra poco parleremo di uno dei passi in avanti della riforma delle province, cioè la possibilità di trasferire gli esuberi di queste benedette province che si stanno per chiudere, circa 20.000 persone, dove entro marzo bisogna trovargli un posto, ma ci sono i tribunali sotto organico. Tra l'altro in queste ore si sta inaugurando l'anno giudiziario, ogni anno si parla anche di questo, e allora se fai 2 più 2 viene fuori: trasferiamoli nei tribunali, questi dipendenti in esubero, e quindi otteniamo diversi vantaggi con una riforma sola. Vediamo, e anzi sottoponiamo agli ascoltatori questa notizia, facciamo un sondaggio: secondo voi si può fare, riuscirà questo spostamento dei dipendenti pubblici? 800 24 00 24, anche su Facebook si può fare /24, e l'account Twitter è il solito si può fare 24. Vi aspettiamo, cominciamo? Vai! C'è anche il gioco, è sabato, bisogna giocare. Cari giusto? Ascoltatori, quindi vi aspettiamo per giocare con noi in questo modo qua. Siccome, insomma, Fabrizio Corona, lo sapete, ha detto che non ce la fa più a stare in carcere, ha avuto una condanna di 8 anni, qualcuno dice esagerata, per aver ricattato alcuni VIP, ebbene, insomma, esemplare, questo un po' bisogna, quantomeno detto, esemplare, sicuramente. Siccome noi per i lavori socialmente utili siamo sempre d'accordo per le pene riparative, cioè per le pene fuori dal carcere, siamo sempre d'accordo. Allora anche in questo caso diciamo: ok, allora vi chiediamo suggerimenti per delle pene alternative, lavori socialmente utili per Corona. Giusto, avete idee? Cosa potrebbe fare? Beh, andare dai vecchietti di Berlusconi, no, uno dice: già ci siamo beccati Berlusconi, adesso va via Berlusconi, arriva Corona. Uno dice: vabbè, se avete scelto noi vecchietti proprio per qualunque cosa, dobbiamo redimere chiunque, è un po' difficile. Oppure sempre il tema di vecchiette, potrebbe accompagnare le anziane a fare la spesa. Lui o a fare la fototessera, secondo me fare la fototessera sarebbe un giusto, diciamo, una giusta punizione. Oppure Claudia Schiattone in redazione diceva: beh, potrebbe organizzare una mostra fotografica sull'Africa, sui bambini denutriti o su cose di questo genere. Lui che è abituato a anche soggetti, questo, giusto, potrebbe più, essere. Mi sembra più giusto. 800 24 00 24, anche oggi la risposta che ci piace di più vince i biglietti e il catalogo della mostra di Chagall. Fammi sentire la musica. Fatina. Questa invece è la musica che noi dedichiamo appunto ai dipendenti delle province in esubero. Non ce ne vogliano, cioè nessuno perderà il posto di lavoro, almeno dovrebbe, questo non dovrebbe accadere, sia chiaro. Però insomma, gli spostamenti all'interno della pubblica amministrazione sono già previsti negli uffici dove c'è troppo personale, spostarli dove sono più utili, ma non succede mai. Questa volta potrebbe succedere. Ci sono 20.000 esuberi, ci sono i tribunali che hanno 7.000 persone in meno, sono sotto organico. Se fai 2 più 2 esce fuori proprio questo. Spostiamoli di qua alla... noi ne parliamo con Arianna Censi, consigliere delegato alle risorse umane della città metropolitana di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Perché vogliamo affrontare proprio il caso Milano. È uscito su Cronaca di Milano, Repubblica, qualche giorno fa una notizia, si parla già di possibili 500 spostamenti da un settore all'altro. Lei che appunto ha la responsabilità proprio del personale, della, diciamo, di quello che resterà della provincia di Milano, la città metropolitana, secondo lei questo spostamento si può fare? Beh, intanto devo dirle una cosa per precisazione. Non è che resterà, la città metropolitana è un po' di più di quello che era la provincia, è un ente di pianificazione serio, importante, di governo, di area vasta, è un po' diverso. L'altra precisazione è che è il 30% della somma all'aprile del 2014, quindi il 30% non necessariamente sono 500, ma dipende dal valore. Questa è una prima precisazione. La seconda è che entro il 31 di marzo bisogna definire quali sono le funzioni e le persone assegnate a quelle funzioni che sono considerate in esubero. E il processo però dura, per fortuna, dico io, nel rispetto delle persone, 2 anni. Cioè noi dobbiamo entro 2 anni fare questa operazione di spostamento, ricollocazione, mobilità del personale considerato in esubero all'interno della città. E su questa destinazione nei tribunali che sono sotto organico, come la vede? So che ci sono resistenze, certo, per esempio, di una parte dei sindacati che sono contrari. Ma a me questo non risulta, però può essere che sia vero e io non ne abbia informazioni. Una delle la CGIL avrebbe detto che bisogna fare un tavolo, che bisogna discutere, insomma, contrarietà. No, sul fare un tavolo mi risulta anche che la ministra Lanzetta lo abbia stia per organizzare nei prossimi giorni. Per quanto ci riguarda, noi certamente martedì incontriamo le organizzazioni sindacali e poi a seguire nella settimana successiva io direttamente incontrerò quasi tutti i lavoratori, anzi direi tutti, cercherò di incontrarli tutti in assemblee separate, perché il processo deve essere un processo utile alla pubblica amministrazione, cioè deve essere utile a migliorare il lavoro della pubblica amministrazione, quindi individuare funzioni, individuare più semplicità, più velocità, meno burocrazia, un sistema organizzativo che lavori in maniera più utile, diciamo. Oggi c'è una certa rigidità nella pubblica amministrazione, oggettivamente è così. Ma tra le rigidità che ci sono, secondo lei c'è anche quella appunto del, come dire, scarso ricorso alla mobilità interna, cioè spostare persone da un ufficio all'altro dove magari possono essere più utili, perché le cifre parlano di un ricorso, sì, di questa cosa di meno dell'1%. Sì. Devo dirle, la provincia di Milano prima, oggi città metropolitana, ha fatto un lavoro di riorganizzazione secondo le funzioni assegnate dalla legge, che ha di fatto ridotto molte posizioni dirigenziali e ha iniziato un processo di riorganizzazione per funzioni. Cioè l'idea è quella che noi governiamo funzioni insieme ai comuni nel governo di area vasta e quindi il personale dirigente, i dipendenti dei comuni e della città metropolitana lavorano insieme per un progetto migliore e unico. Per esempio fanno appalti condivisi, gestiscono temi di carattere territoriale, manutenzione, interventi sul territorio in maniera più organica e più funzionale. Questo è l'obiettivo, quindi una riorganizzazione deve certamente andare in quella direzione. Poi se lei mi permette, sì, dica. Il 31 di marzo è un tempo brevissimo per impostare una riorganizzazione. Questa chi è lo ha previsto opinione. Questo tempo? La legge. La legge del Rio. ma su queste cifre che si fanno, 500 persone, è verosimile? Potrebbero essere questo? Perché sì, noi sappiamo che i tribunali, cioè adesso l'inaugurazione dell'anno giudiziario, ogni anno ci sono le lamentele giuste anche su questo aspetto, perché di giustizia si parla sempre molto in termini spesso di scontro tra fazioni, giustizia e politica, eccetera. Però poi sappiamo che uno dei problemi concreti è quello della carenza proprio di personale e si fa fatica a stare dietro alle necessità. Quindi sarebbe quanto mai importante che si facesse questo passaggio. 500 persone a Milano, verosimile? 500 no, io penso una cifra intorno ai 120-150, sì, ragionevolmente. E credo sia molto utile ai tribunali, che poi è il tribunale, la Corte d'Appello, il Tribunale dei Minori, insomma, sia molto utile anche perché il personale amministrativo e tecnico della ex provincia di Milano, della città metropolitana, è un personale molto qualificato, per cui ne trarrebbero giovamento entrambi. Questa è una delle strade che stiamo percorrendo insieme alla mobilità tra enti, cioè i 133-134 in questo caso comuni della provincia di Milano, della ex provincia di Milano, possono per coprire posti in organico utilizzare il personale, la mobilità del personale. Quanto, a quanto ammonta il personale complessivo della provincia di Milano? 1500. Quindi su 1500, 120 potrebbero finire Io dico una cifra che va dai 100 ai 150, sì, gli accordi li quindi stiamo un 10%, facendo. Un 10%. Sì. Poi okay. dipende dalle figure professionali, dallo stipendio. Stiamo sempre parlando di un 30% sì. del monte complessivo di disponibilità, per cui è chiaro che quindi ci saranno altre quote, cioè è brutto parlare di quote quando parliamo di persone, però insomma un altro numero di persone che dovrebbero essere destinati in altri servizi, sceglieranno di andare in altri servizi, sarà posta loro l'opportunità. E sarà su base volontaria questa cosa o ci saranno delle, diciamo, indicazioni in qualche modo obbligatorie? Per esempio questi 150 che andranno nei tribunali saranno costretti a fare, cioè saranno indotti a farlo, come funziona? Ma noi dovremo fare una definizione di quali sono le funzioni che rimangono essenziali e qual è il personale assegnato a funzioni che risulta sovranumerario. Questa parola è orrenda, ma insomma così. Quindi noi apriremo più possibilità per permettere alle lavoratrici e ai lavoratori di scegliere la destinazione che o migliora la loro vita personale perché banalmente stanno più vicino a casa, hanno orari migliori, o migliora la loro possibilità professionale. Per cui e se nessuno scegliesse di andare in tribunale? Io non credo che questo accadrà. Dovremmo ma se fare accadesse? Un lavoro. Io mi impegno a fare in modo che non accada nella relazione con i lavoratori. Questo io penso. E così che ci spaventa, però. Chissà così come fa. No, però, guardi, secondo me il punto è. Sì, ma questo è però un punto rispetto, importante, mi scusi, perché certo. se nessuno sceglie di fare quello che è utile alla pubblica amministrazione, qualcuno viene precettato o meno? Questo guardi, la gente vuole sapere. Entro sì? due anni, sì? coloro che fanno parte di servizi che non sono più essenziali o indispensabili o centrali nell'attività di città metropolitana devono essere posti in mobilità, devono scegliere a opzioni proposte di andare da un'altra parte. Al termine di questi due anni parte la mobilità, quindi io credo che naturalmente i lavoratori e le lavoratrici sceglieranno. Sì, ho capito una cosa, ci vogliono due anni, quindi in questi due anni ci sarà un percorso nel quale insomma, si cercheranno le soluzioni migliori, poi vedremo quali saranno queste soluzioni, ma non è una cosa che succederà, diciamo. Succederà domani, quindi vedremo, staremo a vedere. Noi siamo lì che seguiamo questa storia perché ci interessa. Grazie a Arianna Cenzi della città metropolitana di Milano. Ascoltatori 800 24 00 24, Gabardini, vuole dire qualcosa? No, ero curioso, ho sentito tutto con attenzione. Va bene, torniamo tra un attimo. Get back to where you want.

indagato. Attraverso questo archivio ancora oggi noi riusciamo a individuare e recuperare dei beni che sono in giro per il mondo. Ripeto, recentemente abbiamo fatto rientrare, perché posti in asta a Christie's New York, uno Stamnos e una Pelican che proprio facevano parte di questa attività di saccheggio. Quindi, e che succede, mi scusi, a uno che compra un'anfora all'asta Christie's, spende un sacco di soldi e poi arrivate voi e dite: guardate che questo lo prendiamo noi? Ovviamente le procedure sono differenti a seconda che si tratti di un collezionista privato piuttosto che di una struttura museale. E bisogna innanzitutto essere capaci e bravi nel riuscire a dimostrare che il pezzo è di proprietà dello Stato, che quindi è un oggetto scavato illegalmente, certo, in un'area archeologica italiana. Ma in quel caso riuscite a dimostrarlo... Ci sono varie strade, c'è una strada prettamente giudiziale, quindi attraverso delle commissioni rogatoriali internazionali. In alcuni casi, come ad esempio con gli Stati Uniti, esistono degli accordi bilaterali. Insomma, più carte bollate che Indiana Jones, ecco, cioè, il vostro lavoro da questo punto di vista è lungo. Non sempre, perché molto spesso attraverso anche la grande rete di cooperazione internazionale di polizia, che negli anni la tutela patrimonio culturale dei carabinieri è riuscito a intessere, noi riusciamo a poter fare delle vere e proprie investigazioni coadiuvati dai colleghi esteri in tanti altri paesi, oltre ovviamente all'Italia. Complimenti veramente. Grazie a Maggiore Coppola. Ci riporti anche la Gioconda, diciamo. Già che ci siamo. Quella è un po' più difficile. Ma come più difficile? Sappiamo esattamente dov'è. Sì, abbiamo le coordinate. Esatto. Buona giornata, grazie, buon sabato. Grazie mille. Bocca al lupo per tutto quello che fanno i carabinieri, che le recuperano tutte queste anfore, queste cose bellissime. Forse abbiamo anche unito questa notizia a il gioco che stiamo facendo, ovvero consigliateci, telefonateci per consigliarci dove mandare ai servizi sociali Corona, perché c'è un SMS che ci dice: per quanto riguarda Corona suggerirei di impiegarlo per la catalogazione fotografica degli oggetti d'arte che giacciono dimenticati nei magazzini dei musei e che, se digitalizzati, sarebbero a disposizione di studiosi e curiosi di tutto il mondo. E aggiungerei: a disposizione del maggior Antonio Coppola, che abbiamo appena sentito, che infatti diceva ci sono poi tutte degli archivi fotografici per capire da dove viene quell'anfora, se è stata scavata illegalmente, se appartiene allo Stato italiano. Lui la riporta indietro. Marco da Brescia, buongiorno, benvenuto. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Mi sente? Sì. Noi la sentiamo, sì. Cosa voleva dire? Buongiorno, ascolti, io volevo dire che secondo me Fabrizio Corona dovrebbe andare a fare dei corsi ai ragazzi di 17-18 anni nelle scuole di rispetto della legalità. Praticamente lui, che ha fatto un po' il furbetto, è stato un po' leggero su tante cose, ha preso un sacco di anni di galera, e quindi, visto che è un po' un modello per i giovani, potrebbe spiegare questo. È perfetto, ma come fa a spiegare, nel senso, senza nulla togliere, ma è difficile che spieghi la legalità. Forse è più facile che faccia dei corsi per fare dei selfie. Si presume che si sia pentito, no, a questo punto. Ovviamente questo se si pente, perché se lui è convinto di aver fatto la roba fatta giusta... No, certo, certo. Va bene. Marco, grazie. Perché corsi di legalità nelle scuole per Corona. Paolo da Roma, buongiorno. No, dopo? Non c'è. Sì, sì. Paolo, dopo. Buongiorno. Buongiorno. Senta, stavo parlando prima con la segretaria, più che io lo considererei un servizio sociale. Allora, premetto una cosa: prima di tutto costringerei Corona a non depilarsi, non fare palestra per un anno di seguito, prima cosa, e poi di... No, ma questa è una punizione? Ma no, un momento, adesso viene fuori il servizio sociale, chiamiamolo servizio sociale. L'altro giorno, girando per Roma, ho visto a Fontana di Trevi, degli strani personaggi che fanno fotografie agli stranieri, che hanno addirittura la stampante attaccata al petto, la batteria di dietro, quindi praticamente vorrei vedere... Paolo, dobbiamo chiudere... fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare, questa era Bittersweet Symphony, The Verve, che è il nostro Si può fare in musica. È la canzone che è stata scelta e ci è stata proposta dalla nostra ascoltatrice Anna da Milano, che salutiamo e ringraziamo. Poi vi ricordiamo che stiamo cercando dei Si può fare in musica, quindi un vostro modo di interpretare Si può fare attraverso una canzone che potete consigliarci sui nostri social network, quindi su Facebook Si può fare trattino Radio 24, oppure sull'account di Twitter @sipuofare24, oppure sui nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini e il mio è @AleMaurizzi. Chiariamo subito anche la questione di Corona, perché ci stanno un po' scrivendo gli ascoltatori, qualcuno dicendo che siamo troppo poco umani nei confronti di Corona, forse perché stiamo scherzando, qualcun altro invece al contrario che dice: Fabrizio Corona vi sta prendendo tutti per il deve restare in carcere come gli altri non famosi come lui, o comunque di persone che dicono: ah, perché vi occupate di Corona, Corona è giusto che resti in carcere. Noi l'abbiamo detto tante altre volte e su questo diciamo siamo coerenti. Le pene riparatorie o i lavori socialmente utili al posto del carcere sono, noi ci crediamo veramente, sono utili. Tutte le statistiche dicono che le recidive diminuiscono a seconda del reato commesso, si individuano dei percorsi che sono migliori rispetto la detenzione in carcere. Quindi, al di là del caso di Corona, che è quello più famoso perché ha fatto parlare di sé per vari motivi, vari e svariati motivi, la cosa è plausibile, la cosa è vera. Assolutamente. Ricordiamo anche che in Italia il carcere ha uno scopo educativo e non unicamente detentivo, cioè l'idea è di reinserire, l'idea che sta alla base e direi fondamentale, che non c'è in tutti i paesi ma che c'è assolutamente deciso in Italia, è quello della rieducazione e studiare inserimento nella società. Percorso per uno come Fabrizio Corona, magari anche con un po' di, come vogliamo dire, con un po' di pepe, con un po' di cattiveria, ma nel senso giusto, cioè vai proprio a fare quello, il contrario di quello che hai fatto fino ad ora, per capire, non so, per esempio quelli che fanno reati stradali vengono portati dalle associazioni dei parenti di vittime dei reati stradali a confrontarsi con loro. Questa è una possiamo dirla, è la legge del contrappasso, che ci ha insegnato Dante con la Divina Commedia, quindi noi questo vi chiediamo oggi, cari ascoltatori. 800 24 00 24. Maria Luisa da Roma, buongiorno. Maria Luisa, mi sente? Sì, benissimo, buongiorno. Anch'io, buongiorno a lei. Io pensavo una cosa: visto che Corona ha sempre lavorato in un ambiente diciamo poco limpido della società, perché non lo mettiamo a pulire le strade? Così si rende conto che cosa vuol dire la pulizia, forse apprezza lo stare all'aria aperta e fare una cosa utile. Cioè, dalla pulizia morale a quella materiale delle strade, questo non è male, Maria Luisa. Via Cimarosa a Roma, che siamo al quartiere Parioli, che dovrebbe essere. Cioè, lei saprebbe anche proprio dove mandarlo, la strada precisa. Ha bisogno proprio di uno stradino sotto casa, diciamo. Ma no, io non abito lì, ci sono passata e veramente ero disgustata. Va bene, Maria Luisa, questa non è male. Accogliamo la proposta. Questa non è male, grazie. E ricordiamo anche che prima, per, a causa del giornale radio, abbiamo dovuto chiudere rapidamente. Ovviamente Paolo, ringraziamo anche Paolo da Roma, che in realtà ci ha fatto molto ridere dicendo, innanzitutto, come pena mi piacerebbe smettere di depilarsi e di fare palestra per un anno, che mi sembrava bello, perché era quasi un tentativo di modificare il fisico di Corona. E poi l'ipotesi era di mandarlo davanti alla Fontana di Trevi a scattare le foto come quelli che fotografano turisti. I turisti. E stava facendo l'esempio di quelli che hanno addirittura la stampante addosso per stampare, che poi molti lo fanno con la Polaroid, ma va bene, direi che anche quello è un buon contrappasso per Corona. Quindi ringraziamo il nostro ascoltatore Paolo. Non so quanto sarebbe socialmente utile, però ci può stare. Emiliano, turisticamente utile. Da Foggia, buongiorno Emiliano. Lei di cosa voleva parlare? Buongiorno. Buongiorno. Io ho ascoltato, diciamo, il vostro intervento relativo agli esuberi delle province. Sì, sì. Però tutti si dimenticano che esistono anche 150.000 giovani idonei che hanno superato un concorso, che con la questione degli esuberi delle province risultano bloccati non si sa per quanto tempo. Cioè, qual è il nesso, scusi? Il nesso è che il governo, avendo individuato 20.000 esuberi, ha pensato bene di bloccare tutte le assunzioni in tutte le pubbliche amministrazioni, lasciando 150.000 giovani idonei al palo. Non si sa quando la situazione si sbloccherà. Certo, che hanno fatto il concorso, giovani che hanno fatto il concorso. Però se ci sono già il concorso, io sono idoneo ad esempio in due concorsi, per funzionario amministrativo a Roma Capitale e per istruttore direttivo amministrativo al Comune di Bari. Ma però mi scusi, capisco benissimo il problema e esiste assolutamente, però se ci sono già 20.000 esuberi diventa un po' difficile chiedere all'amministrazione di assumere altri 150.000, perché dopo si va sulla questione della spending review, che abbiamo troppi dipendenti pubblici, o una o l'altra. Perfetto, il problema è che il governo ha parlato tanto di staffetta generazionale, adesso la fa con gli over 55 la staffetta generazionale. In questo c'ha ragione, certo. No, la risposta non si possono neanche ammazzare gli over 55. Sì, questo è vero, però è anche vero che la pubblica amministrazione italiana è nettamente tutto organico e i costi della pubblica amministrazione italiana sono i più bassi in Europa. Emiliano, la risposta credo che forse più corretta è che bisognerebbe avere la forza e portare avanti tutte e due le linee, cioè da un lato la spending review, quindi chiudere le province e ricollocare i dipendenti dove servono, poi però se ci sono persone che hanno fatto i concorsi e sono idonee, giustamente prima o poi assumerle dove vanno assunte, nei punti dove c'è bisogno, in base al ricambio generazionale c'è gente che va in pensione, c'è il turnover che è stato bloccato nella pubblica amministrazione ma che prima o poi riprenderà. Però in effetti questo tema d'altra parte era giusto sollevarlo. Assolutamente. Ci avevano scritto su Twitter diverse volte, sui social network, già nei giorni scorsi. 800 24 00 24. Chiudiamo con Guido da Bergamo. Guido? Pronto? Pronto? Pronto, mi sentite? Sì, benissimo, buongiorno. Buongiorno. Allora, riguardo al caso di Corona, a prescindere dal fatto che sarebbe meglio lasciarlo dov'è, sì, una pena alternativa sarebbe quella di mandarlo a lavorare in una mensa aziendale. In una mensa aziendale? Dove ci sono dei ritmi pazzeschi, rispetto della persona zero, e forse imparerebbe qualcosa. Cioè, nelle mense aziendali c'è rispetto delle persone zero? Ma lei lavora in una mensa, Guido? Sì. Io ho lavorato per un anno e oltre che essermi danneggiato fisicamente, anche moralmente. Si è trovato male, quindi, insomma, lei? Moltissimo male, rispetto a persona zero, cioè ritmi pazzeschi, insulti continui, quindi gli andrebbe bene quel personaggio lì per un po'. Ma scusi, se è perfetta l'ipotesi, va benissimo, accogliamo, però adesso ci ha incuriosito su questo mondo delle mense così terribili, che sembrano più terribili del carcere. Il mondo del lavoro è ben diverso dal mondo che viene illustrato per televisione o per radio. No, ma assolutamente, che siamo interessati, perché di solito uno dice quella mensa è terribile perché si mangia malissimo, ecco, diciamo, in molte mense si mangia veramente male, ma no, addirittura che girano insulti e quello che c'è dietro è un mondo terribile, eravamo curiosi, ma diciamo. La sua, Guido, scusi, la sua era un'azienda privata, una mensa privata o pubblica? No, privata. E se, quanto tempo? Nella preparazione dei cibi. E quanto tempo ci ha lavorato? Ci ho lavorato un anno, perché poi mi si è rotta anche la cuffia rotatoria, per cui vabbè. Poi comunque non ci sarei riuscito ad andare avanti, per cui. Ma adesso c'ha un altro lavoro, Guido? No, io adesso feci un pseudo lavoro, cioè fine settimana vado a fare qualcosa. Va bene, Guido, in bocca al lupo per il futuro. Sì, in bocca al lupo per il futuro, grazie. Il mondo del lavoro ha varie sfaccettature. Ora può darsi che in questa mensa, non so, Guido si sia trovato male o ci fossero delle condizioni di lavoro particolari. Questo giustifica, a tuo avviso, Gabardini, mandare Corona in una mensa aziendale? Come legge il contrappasso? Come la vedi questa candidatura di Guido? Boh. Non lo so, sono molto incuriosito. No, sono spaventato dal mondo a delle mense. A servire gli altri, che... a servire gli altri. Cioè, un lavoro di servizio, questo potrebbe essere, esatto, il senso. No, questo assolutamente. Sono stupito dalla questione così terribile del lavoro nelle mense, perché pensavo che fosse terribile, ripeto... Stare dall'altra parte. Esatto, mangiare nelle mense, ma no, invece noi ce l'abbiamo addirittura... qua una mensa, si mangia benissimo qua al Sole 24. 4 ore, traffico. Cosa c'entrano le fragole con il pesce artico? Provalo a spiegare ad un bambino di prima elementare e ti dirà che sei pazzo. Pazzi sono gli uomini che giocano a modificare millenni di vita sul pianeta, biotecnologia industriale. Togliete le mani dalla terra non è vostra. Giù le mani dalla terra, giù le vostre mani. Questa simpatica canzoncina che vede tra gli altri interpreti e autori Jacopo Fo, si chiama No OGM, la terra è nostra, è una specie di inno contro gli organismi geneticamente modificati, la possibilità di coltivarli nel nostro paese, in Italia. Ora, prima di tutto una notizia, perché ieri i ministri della salute, dell'ambiente e dell'agricoltura hanno firmato il decreto, dopo la decisione dell'Europa di lasciare liberi gli stati di decidere se coltivare o no OGM, in Italia non si può fare, è stato prorogato questo divieto, quindi niente OGM in Italia, almeno per ora. Noi però siamo in collegamento con il consigliere regionale della Valle d'Aosta, Claudio Restano. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Perché prima ancora che arrivasse questo, diciamo, decreto di proroga del divieto di OGM in Italia, in Valle d'Aosta il Consiglio regionale ha votato subito, diciamo, a caldo della decisione dell'Europa, del liberi tutti del Parlamento europeo, avete messo subito le mani avanti, dice: in Valle d'Aosta noi non vogliamo OGM, addirittura avete previsto delle sanzioni per chi si mettesse in testa di coltivarlo. È così, Restano? È proprio così. La Valle d'Aosta ha preso una decisione importante che è arrivata, ha portato a compimento delle iniziative che sono già iniziate, hanno avuto inizio circa 10 anni fa, con delle coltivazioni particolari, decidendo di puntare fortemente sul biologico, sulla qualità dei prodotti valdostani, in maniera di proporre alla popolazione valdostana, ai turisti, le nostre eccellenze, le eccellenze del nostro territorio. Ecco, ci ricorda perché insomma, la vostra regione, voi che siete contrari agli OGM, perché questa cosa è, diciamo, come dire, la vivete come qualcosa che contrasta con la vostra scelta di qualità, di andare sul biologico e di puntare su questa qualità del Made in Italy. Perché siete contrari agli OGM? Guardi, la Valle d'Aosta ha la fortuna di godere di un territorio molto particolare, montagne tra le più alte d'Europa, gran parte del territorio è coperto da ghiacciai, acque pure, un territorio che si propone ed è ancora incontaminato. Quindi la scelta di dire no agli OGM è proprio la volontà della popolazione valdostana, in primis del governo regionale, di tutto il Consiglio, perché è una legge che abbiamo votato all'unanimità, di continuare a preservare il nostro territorio, le nostre particolarità e, come ho detto prima, i nostri prodotti, le nostre eccellenze. Non siamo allo, ecco, stato... Ma perché invece gli OGM contrastano con tutto questo, secondo voi? Perché, guardi, in primis noi mettiamo la prevenzione della salute anche, siccome non ci sono delle certezze scientifiche su questo discorso, applichiamo il principio della cosiddetta precauzione. Quindi diminuiamo il rischio e... Ecco, perché infatti una delle cose che viene detta è questa, no? Che non ci sono certezze scientifiche né in un senso né nell'altro. Allora, noi si può fare, ci sta molto a cuore la qualità, lo diciamo sempre, il made in Italy, l'agricoltura, uno dei pochi settori che tirano, quindi sicuramente poi in Italia c'è una posizione abbastanza bipartisan, trasversale, che va dalla Lega agli ambientalisti sul fatto che non ci serve diciamo produzione su vasta scala con gli OGM, come succede per esempio in America. Però ci si interroga, perché qualcuno dice almeno la sperimentazione controllata andrebbe fatta per capire nel giro di qualche anno questi OGM davvero se hanno queste ricadute poi negative sulla salute, sulle persone e sull'ambiente. Su questa cosa della sperimentazione, per esempio, come la vedete voi lì dalla Val d'Aosta? Guardi, sicuramente la ricerca e la sperimentazione sono le leve per il futuro, però devo dire che noi, come detto prima, viviamo in un territorio particolare dove ci sono forti venti, un territorio di montagna, e già nel 2005 avevamo applicato le cosiddette norme di coesistenza che permettevano delle piccole coltivazioni mantenendo delle distanze di sicurezza dagli altri terreni che coltivano prodotti, no, avrebbero coltivato prodotti non OGM. E guardi, posso dire che di fatto anche l'applicazione di queste semplici norme di coesistenza sancivano il divieto di coltivazione OGM in Valle d'Aosta, perché noi abbiamo una frammentazione territoriale elevatissima data dalla morfologia del territorio, da avere tanti proprietari diversi, e quindi non è possibile coltivare gli OGM ed altri prodotti senza contaminare i prodotti diciamo tradizionali, quelli biologici, i prodotti DOC, perché noi abbiamo i prodotti DOC riconosciuti dalla comunità europea. Avremmo messo a rischio non solo il territorio, ma tutta la nostra storia, le nostre coltivazioni che hanno dei riconoscimenti di alto elevato prestigio anche dalla comunità europea. Quindi la scelta è stata una scelta chiara, certa e applicabile, sia per la prevenzione della salute, per la tutela del territorio, per la tutela dei nostri prodotti, e anche è stata una scelta di marketing territoriale, se vogliamo. La Valle d'Aosta si contraddistingue per una scelta chiara. Certo, ma quello che mi chiedo, mi scusi, perché quando si sente OGM di solito la prima reazione è no, assolutamente no, gli OGM perché sono una roba brutta e cattiva, ma quello che mi chiedo, per esempio gli innesti non sono anche quello in fondo una modificazione della genetica? Adesso io non so, quando ero giovane c'erano i Mapo, che credo che sia un innesto fra mandarini e pompelmi, anche quello oppure vuol dire OGM? Mandarini senza noccioli? So. Se vogliamo è una modificazione, le do ragione. No, ma io guardi, sono lo stupido dei due, quindi è semplicemente non so mai la posizione sugli OGM, perché di mio tendenzialmente appunto direi no, è meglio di no, però poi quando si entra a cercare di capire la questione, OGM è un campo molto più vasto, appunto in realtà ci sono molte cose che noi mangiamo oggi che sono tra virgolette chiaramente modificate geneticamente, che quando si sente questa parola qua uno si spaventa subito, è che esistono anche tecniche naturali, giusto? Esistono tecniche naturali che sono applicate e antichissime. Antichissime da tantissimi anni anche in Valle d'Aosta. Quella degli OGM è una scelta un pochino diversa rispetto a quella degli innesti, che noi allo stato attuale non condividiamo perché non ci dà garanzia. Ecco, senta, però scusi Restano, molti agricoltori però dicono che insomma, il settore è un po', per quanto diciamo ci siano dati positivi, vada bene, è un po' in difficoltà, gli agricoltori fanno fatica a vedersi riconosciuti poi i prezzi giusti sul mercato per tutto il lavoro che c'è dietro la produzione, e alcuni dicono con gli OGM potremmo invece diciamo abbattere certi costi, perché non c'è bisogno almeno inizialmente di pesticidi e diciamo la produzione è più alta. Come pensate voi invece di sostenere i contadini e gli agricoltori in un altro modo, senza OGM? Allora effettivamente vi è una parte di agricoltori che affermano quanto da lei detto, altrettanti dicono l'esatto contrario, sono proprio degli studi che vanno in tal senso. Noi pensiamo che il caratterizzarsi in un mondo globalizzato come il nostro caratterizzarsi per una regione così piccola porterà degli effetti vincenti e favorevoli anche sulla nostra agricoltura. I prodotti devono essere di qualità e solo così noi riusciremo a combattere la crisi che c'è in questo periodo. Come dicevo prima, per proprio le caratteristiche del territorio non riusciremo mai noi a fare delle colture intensive. Abbiamo degli appezzamenti troppo piccoli, quindi dobbiamo necessariamente puntare sulla qualità del prodotto. Ma lei vieterebbe anche l'importazione di prodotti agricoli fatti all'estero con OGM? Se fosse per lei, lo vieterebbe? Queste scelte competono non rientrano nelle sfere di competenza del Consiglio regionale. No, beh, certo, questo no. Ma se fosse per lei, la sua opinione qual è? Lo vieterebbe? Io lo vieterei, sì. Va bene, grazie per ora Claudio Restano, consigliere della Valle d'Aosta, buona giornata, questa grazie. Era la notizia, la Valle d'Aosta per prima si è mossa, in Italia non si possono coltivare OGM, ma prima ancora che arrivasse il decreto del governo di proroga di questo divieto, la Valle d'Aosta ha messo le mani avanti e ha detto no, qua niente OGM. 800 24 00 24... Ci sono SMS. Sì, volevo leggere questo, diciamo, non verifico troppo la notizia e forse quindi sbaglio, ma mi prendo la responsabilità di sbagliare. Potreste ringraziare alla memoria il luogotenente Enzo Fregosi, morto nella strage di Nassiria, che faceva parte dello stesso reparto del maggiore dei carabinieri, tutela dei beni, che abbiamo ascoltato precedentemente, andato laggiù proprio per tutelare le opere saccheggiate. Ci dice Gabriele da Livorno. Averlo saputo, facciamo una domanda al comandante. Mi sembrava doveroso. Comandante, che abbiamo avuto il collegamento. Non ho verificato. Comandante Coppola. Abbiamo Fabio che chiama da Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo spendere due parole per quanto riguarda l'eventuale pena sociale per Corona. Sì. Io lo farei, visto le sue qualità, magari lavorare per la Guardia di Finanza, che ne so, per seguire delle piste, per fare delle rivelazioni e comunque... Per seguire delle piste... Già viene da ridere se si pensa a Corona. Bene. No, intendevo quello. Io mi sono trattenuto adesso perché pensavo di non poterla fare questa battuta. Adesso che lo so, io sono tranquillo. Fabio, quindi lei lo vuole, a parte le piste, diciamo, lo vorrebbe vedere impegnato con la Guardia di Finanza. Questa potrebbe essere, sì. Mi è balenata questa idea per la testa e ho detto vabbè, provo a chiamare, sentiamo cosa ne pensano. Non è male, questo diciamo che è nel solco della questione della legalità, è chiaramente una legge del contrappasso sarebbe per Corona, qualcuno ha evocato corsi di legalità nella scuola. Ma tra l'altro di più che io posso dire, è un po' più che un contrappasso, perché questa cosa qui in realtà molte volte viene usata, nel senso che si usa qualcuno che conosce anche un certo tipo di crimine per poterlo combattere. Certo. Cioè, l'abbiamo visto diverse volte, insomma. Va bene, grazie Fabio, lo iscriviamo anche lui naturalmente al nostro concorso, poi abbiamo ancora una mezz'oretta, altre chiamate, poi dovremo decidere a giudizio insindacabile della redazione di Si può fare, chi è che ci ha dato il suggerimento più originale, più interessante per i lavori socialmente utili per Corona. È arrivato un tweet che dice per favore, che dice a me stesso, al mio tweet personale, per favore accostare OGM a innesto come paragonare una notte d'amore con una bambola di lattice. Io non sono così esperto, infatti chiedevo esattamente questo, nel senso che mi sembrano due cose profondamente diverse, però sotto che hanno sotto qualcosa in comune. Sì, la modificazione genetica, se vogliamo. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra un attimo. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. E da avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Allora, cari ascoltatori, un po' di Twitter. Intanto c'è devi sapere che c'è un ascoltatore che è Luigi Carella, sì, che ci segue ogni weekend dai suoi, credo, dalle sue vigne o gli ulivi, cioè gli ulivi e le vigne. Ma è quello che ci chiamò anche Non so se c'è anche chiamata. Adesso magari su Twitter, Luigi, se ci stai sentendo, e secondo me ci stai sentendo, Luigi 1962, chiarisci anche questo aspetto. Hai già telefonato in onda, cioè ti conosciamo anche dal punto di vista della tua voce. E lui ci scrive ogni volta commenti, minuti mentre lì che pota gli ulivi e fa le cose. E adesso scrive su Corona, dice: io lo prenderei da me per raccogliere le frasche degli ulivi secolari gratis. Logicamente lui verrebbe. E scrive così. Logicamente lui verrebbe, nel senso che si conoscono? No, non lo so. Questo logicamente lui verrebbe non lo capiamo. Però la sua proposta è che lo prenderebbe a raccogliere le frasche, cioè a potare gli ulivi in campagna. Un lavoro socialmente utile per. Sì, per mi sembra lui. Molto interessante che perlomeno uno, appunto, trova una pena che in qualche modo ti faccia anche comodo. Tu dici: sì. Beh, comunque anch'io ho dei lavoretti da fare a casa. Se serve, voglio dire. Ci anche, potrebbe stare. Sì, però un po' di lavoro materiale per Corona, che tra l'altro è anche un bel fisico, è bello piazzato. E poi sicuramente i lavori all'aria aperta in campagna, secondo me, hanno qualcosa di, non lo so, di rieducativo. C'è qualcos'altro su Twitter o su SMS? Oppure andiamo al numero verde? Andiamo al numero verde. Grazie da Milano, buongiorno. Buongiorno. Allora, io proporrei la seguente pena. Sì. Perché possa continuare ad esercitare il culto del fisico e i suoi bicipiti. Una fattoria, un anno di mungitura. Ah, proprio di mungitura in particolare. Sì. Ma perché proprio la mungitura tra le altre cose possibili? Perché immaginami? Io credo che una persona così vanesia abbia bisogno di confrontarsi con un lavoro umile, utile e anche sano. Un anno di mungitura mi sembra un bellissimo titolo. Purtroppo verrà sicuramente travisato in qualche modo andando su la questione del seno, perché comunque vedere Corona che munge allora dalla mattina alla sera. Però mi sembra molto bello, molto bello. grazie mille. Era un po' come la pista seguire le piste della questa è proprio insomma proprio Corona che munge, diciamo. Giovanni da Firenze, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Volevo dire riguardo agli OGM, che voi dicevate che non ci sono state sperimentazioni, che non ci sono sperimentazioni o che sarebbe meglio fare sperimentazioni. Io anni fa ho letto nella pagina centrale del Corriere della Sera un articolo che era proprio a due pagine riguardo la Monsanto. Non so se voi sapete chi è la Monsanto. Certo, una delle multinazionali, l'unica tra l'altro che può produrre OGM, cioè che i cui semi sono ammessi in Europa. Ecco, la stessa OGM, l'articolo era scritto proprio era pubblicato dalla OGM, diceva che dopo non so quanti anni di sperimentazione sui topi, i topi dopo tre generazioni non riuscivano più a figliare e che gli reni avevano assunto delle caratteristiche diverse, si erano rimpiccioliti e compagnie varie. Questa cosa qui, alla fine dell'articolo, sa cosa c'era scritto? Diceva, il commento insomma del giornalista diceva: ma adesso ma chi glielo va a dire? Dice: non cambierà niente, perché chi glielo va a dire a mezza Sud America che abbiamo sbagliato? Come fai adesso a cambiare? Ma lei dice che quindi la sperimentazione non serve a nulla, perché in ogni caso diciamo i risultati verrebbero tenuti segreti, ma non credo che sia così. In Italia, dunque, il problema della sperimentazione è che se lo fai in campo aperto, per via dei venti, vai contro la normativa che lo vieta, perché rischi di contaminare i campi a fianco. Credo che ci sia un impegno del governo a portare avanti la sperimentazione, non so bene come, in delle serre al chiuso, perché ce l'aveva detto anche il ministro Martina. Però io non credo a quello che dice lei. Non credo che si possano ottenere segreti i risultati delle sperimentazioni. Come fai, Giovanni? Cioè, non è... Pronto? Giovanni? Certo. Non erano segreti, sì. Erano ufficiali. Ma il giornalista diceva: ma anche se sono ufficiali, se sono reali, sì, è impossibile cambiare ormai una diffusione tanto grande di questi OGM, di queste sementi OGM, che sono praticamente la base alimentare di certe nazioni. Certo. Beh, un po' è possibile, nel senso che per esempio abbiamo scoperto che la regione Val d'Aosta ha deciso di essere totalmente OGM free, quindi in realtà qualche cosa si può tentare di fare. Poi può essere che magari in altri paesi questo diventa molto più difficile. Va bene, grazie comunque Giovanni anche per questa segnalazione. Insomma, il tema degli OGM poi solleva sempre reazioni forti e come dire, cioè su schieramenti opposti. Sì, ed è molto difficile capire quali sono i dati veri, nel senso che è ovvio, cioè se ci sono dei dati per cui se si mangia quel tipo di OGM si diventa tutti sterili, non è che c'è da farci delle domande, è ovvio che vanno vietati istantaneamente, ma tipo fra un quarto d'ora. 800 24 00 24, tra poco ancora ascoltatori, poi insomma dobbiamo cominciare a quagliare, redazione, lo dico a Daniele, a Claudia di là, anche Carmelo, la Ruscella in regia partecipa al giudizio insindacabile della redazione di Si può fare sui consigli socialmente utili, no, sui consigli per i lavori socialmente utili per Corona, tra poco con altre telefonate. Adesso invece è il momento di un anniversario che ci sta a cuore, è passato un anno dalla nascita di Scorta Civica in Sicilia, vai. Per quello che riescono a dire, non so se son peggio le balle oppure le facce che riescono a fare. A parte che i sogni passano, se uno li fa passare, alcuni li hai sempre difesi, altri hai dovuto vederli finire. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Tira sempre un vento che non cambia niente, mentre cambia tutto, sembra aria di tempesta. Senti un po' che vento, forse cambia niente, certo cambia tutto, sembra aria bella fresca. Niente paura, dice Ligabue, ma è quello che anche dicono tutti quelli che partecipano a Scorta Civica con la loro iniziativa, che mandano a dire ai magistrati, ma insomma a tutte le persone impegnate nella lotta alla mafia. Buongiorno a Linda Grasso di Scorta Civica. Buongiorno. Di Palermo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Noi ci eravamo sentiti un po' di tempo fa, a dire la verità, non proprio con te Linda, ma con un'altra persona di Catania per un'iniziativa che riguardava quella città, però in questi giorni, proprio a un anno dalla nascita di Scorta Civica, avete fatto di nuovo un sit-in, un presidio per insomma per far vedere che ci siete. Come sta andando questa esperienza? Ma sta andando abbastanza bene, è veramente da un anno che noi presidiamo il tribunale. Infatti Scorta Civica nasce proprio il 20 gennaio dello scorso anno, su iniziativa di Salvatore Borsellino, il fondatore delle Agende Rosse, il fratello del giudice Paolo Borsellino. E quindi abbiamo cominciato appunto questo presidio di scorta davanti al tribunale per fare sentire la nostra vicinanza ai magistrati che purtroppo sono abbandonati dallo Stato. Quindi ogni giorno siamo lì a presidiare, diciamo, con questo gazebo che ci hanno pure rubato, fra l'altro. Come? Quando? Quando ve l'hanno rubato? Sì, in inverno, praticamente quest'inverno, se non sbaglio, all'inizio proprio della primavera, non abbiamo trovato improvvisamente il gazebo, sì, che veniva custodito in un bar. Qualcuno ci ha voluto fare uno scherzo, oppure è stata una minaccia, non abbiamo ben capito il motivo. Speriamo solo che a qualcuno servisse il gazebo senza sapere a chi l'ha tolto e che non fosse una minaccia, perché questo sarebbe naturalmente peggio. Ma sa, non lo sappiamo, perché ormai lì in zona ci conoscono tutti, sanno cosa facciamo, è da un anno che siamo lì al tribunale, insomma. E quindi vabbè, comunque non è questo il problema. Però ecco, il problema è un altro. È un problema comunque. Prego. Sì, dico il problema è un altro, il problema appunto è la vita dei nostri magistrati, la vita del dottore Di Matteo, che ogni giorno è messo in pericolo e lo Stato non fa nulla per salvaguardarla. Noi abbiamo chiesto già da un anno, addirittura il 3 dicembre del 2013, avevamo chiesto il jammer al dottore Di Matteo. Praticamente il jammer è un... Lo deve spiegare, il bomb jammer? Sì, infatti. Il jammer è un dispositivo capace di neutralizzare gli impulsi radio che innescano le bombe. Cioè che inibisce i telecomandi delle bombe? Sì. Sì, non lo spiegavo semplicemente, chiedo scusa. Sì, quindi praticamente è importantissimo questo, perché noi sappiamo benissimo che purtroppo le stragi del 92 nelle quali hanno perso la vita Falcone e Borsellino e tutti gli uomini delle loro scorte sono avvenute appunto tramite esplosioni di tritolo. Quindi abbiamo chiesto ripetutamente al ministro Alfano di consegnare appunto questo, di rendere disponibile il jammer per il PM di Matteo. Lui ci aveva detto che stavano studiando appunto questo dispositivo, ma non ci ha mai dato una risposta, o meglio, ha detto che questo jammer fa male perché può provocare danni alla salute ai portatori di pacemaker o alle donne incinte. Però noi sappiamo benissimo che a Roma, quando ha fatto visita appunto a Obama lì a Roma, non c'è stato nessun caso di arresti cardiaci o di altri problemi. Quindi tra l'altro lui ha controllato, a quanto pare ha fatto controllare, verificare un dispositivo che era in uso circa 10 anni fa. Adesso invece con le nuove tecnologie questo dispositivo può essere benissimo tarato. Ma mi scusi, non fa male. Mi scusi, è un dispositivo che diciamo il magistrato porta addosso, oppure che va sull'automobile? Viene messo sull'auto o davanti o dietro, cioè, perché lui ha tante auto di scorta. Certo. Quindi quando poi noi chiediamo appunto questo jammer è per evitare che succeda un'altra strage. Sappiamo benissimo che il scrittore è arrivato a Palermo e ancora non si trova. Noi praticamente conviviamo con 150 kg di tritolo e non sappiamo in quale punto della città possa essere. Linda, resti con noi, dobbiamo fare una piccolissima pausa di 30 secondi per il traffico e poi torniamo insieme. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo insieme a Linda Grasso, referente del movimento Scorta Civica del presidio di Palermo, da un anno in presidio, per testimoniare insomma la vicinanza delle persone comuni ma anche delle associazioni ai magistrati, a chi è impegnato, anche ai testimoni insomma di giustizia, a chi sta portando avanti la lotta alla mafia. Linda, a volte sembra che questo tema sia un po', come dire, che sia un po' dimenticato, non è in primo piano nell'agenda del governo, impegnato sui temi economici, sul governo, si parla moltissimo di Europa in queste settimane, in questi mesi eccetera eccetera, però voi invece siete lì a dimostrare, a testimoniare, a ricordarci che insomma la mafia esiste ancora e l'impegno per sconfiggerla è fondamentale. È così. Certo, ma noi fra l'altro siamo lì per tutelare la vita, ecco, tutelare relativamente, perché il nostro è comunque una scorta civica simbolica ovviamente, però vogliamo far vedere che noi ci siamo e che i nostri magistrati comunque sono attenzionati da parte dei cittadini. Fra l'altro scorta civica è in tutta Italia, perché dietro il nostro esempio praticamente sono stati fatti anche altri presidi, appunto a Roma, Pordenone, Udine, Milano, Torino, insomma diciamo che si è un po' allargato in tutta Italia, e per me questo è importantissimo, perché non siamo solo noi di Palermo a lottare contro la mafia. Tra l'altro noi chiediamo anche che venga fatta piena luce sullo stragismo mafioso, che purtroppo ha le sue convergenze e interesse tra pezzi dello Stato e criminalità organizzata. Non vogliamo soprattutto altri accordi tra Stato e mafia, infatti c'è un processo per ora a Palermo, il processo sulla trattativa Stato-mafia, che vede implicati appunto sia pezzi dello Stato, ovviamente deviati, non possiamo dire che tutto lo Stato è deviato, attenzione, e mafiosi. Quindi noi sorvegliamo, noi stiamo là, ci siamo, anche i magistrati lo sanno, e per loro è importante sapere che noi siamo con loro. E in questo anno siete riusciti a far aumentare anche il numero di adesioni, insomma di persone che partecipano? Com'è il clima attorno a voi? Al di là dell'episodio insomma del gazebo che vi hanno rubato, è un episodio brutto insomma. Eh direi. Sì, praticamente noi abbiamo coinvolto moltissimo i ragazzi delle scuole. Abbiamo organizzato un'ultima manifestazione quando si è saputo dell'arrivo del Tritolo a Palermo per Di Matteo. Abbiamo organizzato una manifestazione con 2000 studenti. È stata una cosa bellissima, perché sono proprio i giovani che devono dare questa solidarietà ai magistrati, perché sono il nostro futuro, e quindi è importante che loro abbiano la coscienza di ciò che sta accadendo. E sarebbe prima, sì, sì. Sì, dico, però quello che non succedeva in effetti nel 92, quando sono state le stragi di Falcone e Borsellino, che la gente un attimino era più dormiente. Quindi noi non vogliamo di nuovo funerali di Stato, eccetera. Noi vogliamo i nostri eroi vivi, li vogliamo celebrare da vivi, non da morti. Questo giusto, è una questo è molto bello, è molto stanchi, bello ed è giusto. Stanchi, mi creda. Qui a Palermo si respira la stessa aria che si respirava nel 92, e mi creda, è una cosa tremenda. Noi viviamo col terrore di sentire da un momento all'altro un boato, di vedere una nuvola di fumo, e non possiamo più permettercelo. Lo Stato deve tutelare i nostri magistrati. Ora è ora di dire basta, veramente, siamo stanchi. È molto bello ricordare questo fatto, che quando poi le cose accadono, dopo allora tutti ci si mobilita, ed è molto giusto vedere che uno dice: bene, allora proviamo a mobilitarci adesso, farlo prima che accada. Ma senta, costa molto questo bomb jammer? Cioè, è una questione economica o qualcos'altro? No, assolutamente, circa 300.000 euro, cioè, dico, tra l'altro quello di, ma dico, a prescindere, noi avevamo pure pensato di fare una raccolta tra tutti i cittadini per acquistarlo, ma ovviamente non ce lo fanno fare, perché deve essere autorizzato dal Ministero. Ma 300.000 euro uno? Sì, ma ne basta uno. Non sono un esperto di bomb jammer, non so se andava su tutte le auto. Sì, sì, no, ne basta uno, basta quello per neutralizzare i telecomandi che vanno delle bombe, insomma. E quindi, niente, ci troviamo, guardi, noi abbiamo fatto l'anno scorso una manifestazione, il 12 aprile, siamo stati a Roma, una manifestazione nazionale con il dottore Borsellino, il fratello del giudice. Praticamente Alfano aveva assicurato la sua presenza, siamo arrivati a Roma, il funzionario della Digos ci hanno detto invece che era impegnato in altro, nella sua campagna elettorale del suo partito, e praticamente non ci ha ricevuto. È stato vergognoso non ricevere, quantomeno, non dico noi che siamo semplici cittadini, ma il fratello di un giudice ucciso per mano della mafia. No, ma sarebbe importante che invece che ricevesse voi, anzi, a questo punto glielo lanciamo noi un messaggio a chi sta vicino al ministro Alfano: mi raccomando, parli con le associazioni e riceva le persone coraggiose, valorose, brave di scorta civica. Noi la ringraziamo, Linda Grasso. Auguri, auguri. E diciamo al ministro anche di comprare questo bomb jammer, e di dargli anche un nome più semplice da pronunciare, soprattutto per chi ha la remoscia. Grazie Linda, buona giornata. Grazie, buona giornata. E sarebbe anche altrettanto bello che questo gazebo che è sparito e che utilizzavano loro ricomparisse. Esatto, così come è sparito, ricomparisse spontaneamente, perché magari qualche cittadino ci sta ascoltando e dice: dai, facciamoli ritrovare, facciamoli capire che anche chi non è iscritto all'associazione, non va al presidio, però sta con loro e li aiuta, li supporta. Molto giusto. C'è un sms divertente che dice: per Corona io propongo di fargli fare lo sparring partner per un anno, cioè, diciamo, credo su un quadrato da box, e vederlo prendere a pugni. È un messaggio che ci manda Carmelo 24, credo che 24 siano gli anni, sicuramente. Giovanni da Salerno, e così chiudiamo con gli ascoltatori della puntata di oggi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dopo un argomento serio passiamo a un argomento più frivolo. Io dicevo che per me Corona lo vedrei bene a fare l'autotrasportatore, il camionista, perché lui, come lui che sta in cella adesso, è chiuso dentro la cabina del camion, è comandato dagli altri andare avanti e indietro per l'Italia tranquillamente, perché lo stesso che tu sei in carcere, però nella cabina del camion è la stessa cosa, solo che sei costretto ad arrivare a qualche parte o fare determinati tipi di lavori. Va bene, va certo. Bene, Giovanni. È una bella immagine. Grazie, direi pure in mezzo al traffico, è in una cabina del camion in mezzo al traffico. È così l'ultima sei anche immagine bloccato. Che si aggiunge oggi nella galleria di quelle dedicate a Corona per un suggerimento dei lavori socialmente utili. A questo punto direi che a giudizio insindacabile della redazione vince Grazia da Milano, che vedeva bene Corona a mungere le vacche. Un anno di mungitura. Almeno per un anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ad Andrea Piana, che ha scritto insieme a noi il programma. Daniela Schiattone, Daniele Bonamici, Claudia Schiattone, faccio casino. Miriam Lucchetti, redazione, Carmelo Ricella in regia. Ho ricordato tutti, ci sentiamo domani. Buon sabato da Carlo Gabardini. Ciao anche da Alessio Maurizio. Ciao.